si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Sono le 8:33 minuti, una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 24, una buona giornata a Carlo Gabardini in collegamento con noi da casa, almeno credo. Carlo, buongiorno, sei a casa? E non ti sentiamo, chi ben comincia a metà dell'opera, vediamo se adesso riusciamo a collegarci con Carlo Gabardini. Vedo che tanti di voi sono già all'opera con l'824-0024 per prenotarsi. Oggi si concorre per il quiz come tutti i sabato, e quindi chi chiama riceverà da noi una affermazione, un raccontino con tre possibili finali. Si deve scegliere qual è il finale corretto. Dalla regia ditemi voi quando Carlo sarà in collegamento con noi, magari lo recuperiamo telefonicamente. Le notizie sui quotidiani, l'abbiamo fatta insieme la rassegna stampa meno di un'ora fa, non sono tanto positive, ma ci sono sicuramente dei guizzi e delle possibilità. Io intanto vorrei cominciare con il segnalarvi comunque che se volete donare soldi agli ospedali che sono attualmente in impegnati nel fronteggiare questa emergenza. Carlo, buongiorno. Buongiorno Laura e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, buon sabato. Ce l'abbiamo fatta a collegarci. Beh, siamo tutti sovraccaricati con queste linee. Sì, sono giorni assurdi, pesanti. Sono a casa, sì, sono a casa, ma sono contento di essere comunque fra di noi. Esatto, tra di noi tutti quanti che siamo insieme. Sai che hanno già cominciato diversi ascoltatori a chiamare per così darci le loro impressioni, prenotarsi per il quiz. Io stavo dicendo loro che se sono tra coloro che vogliono fare donazioni agli ospedali, beh, facciano attenzione in generale affinché i loro soldi arrivino là dove devono arrivare. C'è un aggregatore che è stato creato, per le donazioni coronavirus su Italia Non Profit, ricordate, Italia Non Profit, donazioni coronavirus, che aggrega tutte le campagne di raccolta fondi che sono state approvate dalle strutture ospedaliere interessate. Ecco, diciamo che da lì si arriva dove si vuole veramente arrivare quando si fa una donazione. Carlo, se no, cioè, mi pare giusto e importante ricordarsi, ma tu sei collegato con noi col telefono o via? Dimmi un po' come sei messo. Con il telefono. Assolutamente. Quindi anche tu sei tra coloro che stanno sfruttando questi prodigi della tecnologia che tutti noi abbiamo imparato a conoscere meglio, durante questa settimana, no? Perché la grande scoperta del periodo è anche quante cose si possono fare da casa. Molto vero, assolutamente. Senti, tu hai individuato una buona notizia della settimana? Sì, oppure... Sì, non so quanto sia una buona notizia, come dici tu, però mi aggancio anche alla questione delle donazioni che facevi, nel senso che intanto stiamo proponendo letture o film per riempire la quarantena nazionale, però le difficoltà spesso, almeno quando sono qua a casa, è riuscire a pensare ad altro. Certe notizie non permettono di tenere la testa libera e concentrata a lungo, quindi anche leggere è difficile. Allora ho pensato che già che sto in casa ogni giorno voglio fare almeno una di quelle cose che poi alla fine uno si ripromette sempre ma non fa mai, non so, tipo leggere tutte quelle lettere lunghissime scritte minuscole, le proposte di modifica unilaterale, quelle che le banche spediscono ogni mese confidando nel silenzio assenso. Mi piacerebbe leggerla anche solo per vedere la faccia che fanno se uno va in filiale a dire no, guardi, preferivo prima. Oppure ieri ho attaccato al muro un quadro preso dopo la solenne promessa, giuro amore che se me lo lasci comprare appena arriviamo a casa lo appendo, ed erano 2 anni che girava per casa nostra. Ecco, da un paio di giorni sto facendo sul mio Facebook e il mio Instagram questo giochino con l'hashtag già che sto in casa, chiedendo a tutti di postare i loro già che sto in casa per contagiarci, ricordandoci questi arretrati che abbiamo tutti e si assomigliano pure. Non so, ti faccio un esempio, ieri una mi ha scritto metto a posto l'armadietto delle medicine. Ecco, chi di noi non deve mettere a posto l'armadietto delle medicine, già che è in casa? Ecco, oggi il mio già che sto in casa radiofonico è la donazione donazione a Wikipedia. Lo so che in questo momento, come giustamente abbiamo appena ricordato, uno pensa più agli ospedali, a donare soldi per salvarci dal coronavirus, ma detto molto chiaramente, o moriamo tutti di virus e allora pazienza, avrete buttato via una donazione, oppure ci sarà un dopo coronavirus. Ecco, Wikipedia è una di quelle cose che si danno per scontate, come la libertà di muoversi, la libertà di prendere un treno, e quando ci vengono tolte che ci si rende conto della loro importanza. E poi mi immagino, lo so bene, tutti noi l'abbiamo letto un sacco di volte su Wikipedia, ah, dona 2 euro, solo che uno in quel momento è su Wikipedia perché sta cercando la data di un morto oppure gli ingredienti di una ricetta e ci si dice sempre dai lo faccio dopo, e poi non lo facciamo mai. Ecco, forse già che siamo in casa questa è l'occasione. Ricordo solo che Wikipedia è presente in 290 lingue, non ha pubblicità, essendo uno dei siti maggiori al mondo. Il fondatore Jimmy Wales avrebbe potuto arricchirsi riempendola di banner pubblicitari, ma Wiki è come una biblioteca, un parco pubblico, è per tutti, è gratuita, ma ovviamente ha dei costi vivi per stare in piedi, il che significa che tutti, è di tutti noi, e dunque la collettività deve proteggerla e sostenerla. Non esiste persona al mondo che direttamente o indirettamente abbia giovato del servizio di Wikipedia, quindi credo che sia doveroso anche in questi momenti che chi può permetterselo doni subito qualche euro, oppure guarda, vanno benissimo anche pochi centesimi per ogni dubbio che vi è stato fugato da Wikipedia, virus incluso. Beh sì, già che stiamo in casa abbiamo, è giustamente ricordato, l'occasione di pensare anche a Wikipedia. C'è già qualcuno che scrive: io dono a Wikipedia 1 o 2 volte l'anno, un ascoltatore che si firma Saverio, no. Vedi che hai subito trovato, no? Non sei tu. È giustissimo, no, io l'ho fatta ieri la donazione, perché ovviamente mi dimentico sempre. Poi ce n'è tanti altri, anzi se volete dire i vostri già che però sto in casa, esatto. Siamo ben contenti già che sto in casa e rifletto su alcune cose, tenere, buttare, per esempio io adesso ho la casa piena di roba da buttare perché non serve, poi quando riuscirò a uscire e portarla là dove deve essere conferita, va bene, la porterò, però intanto è stata per selezionata, per il momento l'accumuli, esattamente. Giusto, abbiamo già il primo ascoltatore in collegamento con noi per il quiz, si chiama Enrico, chiama da Milano. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Buongiorno. Attenzione che abbiamo un... lei deve avere la radio accesa, probabilmente l'ha spenta, vero? Ho sentito adesso scomparire questo ritorno. È accesa la radio. La deve spegnere, se no non riusciamo a parlare con lei. Ce la fa? Ce l'ha abbastanza vicina? Sì. Oh, adesso sì che la sentiamo. Allora Enrico, come sa, noi le facciamo adesso, io, Carlo, proviamo a fare come di solito, ok? Quindi io leggo un testo, sì, certo, poi andiamo così, vediamo certamente se funziona tutto come deve. Enrico, io le leggo questa, no? Lei deve scegliere la risposta corretta a questa domanda. Gianni Trezzi, dirigente del liceo Parini di Seregno, per sconfiggere la noia degli studenti ha dato il via a una simpatica iniziativa a distanza. Qual è? Risposta numero 1, estrarrà il nome di uno studente ogni 2 giorni e gli assegnerà un 7,5 sulla fiducia. Risposta numero 2, distruggerà in diretta Facebook un oggetto di casa sua tra quelli più votati dagli studenti. Risposta numero 3, leggerà delle poesie al telefono a chiunque lo chiami, scegliendo un autore a settimana. Che dice? Quindi le risposte sono: spaccare un oggetto in casa, dare un 7,5 al primo che passa, oppure leggere delle poesie al telefono. Ma direi leggere delle poesie al telefono. Sentiamo. E bravo il nostro ascoltatore Enrico, che ha indovinato la risposta corretta: leggere delle poesie al telefono a chiunque lo chiami, scegliendo un autore bellissima a settimana. Un'iniziativa straordinaria. Enrico, non le possiamo dare ovviamente al momento i biglietti che di solito regaliamo per visitare il MUDEC, le manderemo dei libri. Mi sembra l'unica possibilità al momento, quindi verrà ricontattato ovviamente lunedì dal nostro centralino e ci sarà questo scambio assolutamente senza contatto di libri. Grazie Enrico per aver chiamato, buona Grazie. Giornata. Ma è bellissima questa cosa di leggere le poesie. Ma io dire, ho anche la grande sorpresa, ne vuoi sentire una anche tu? Facciamo questo numero insieme, certo, magari. No, lo chiamiamo. Dai, dai, in realtà l'abbiamo già chiamato. Gianni Trezzi, buongiorno. Io non ero lì. Buongiorno. Buongiorno, allora facciamo finta che... Buongiorno. Buongiorno. Funziona proprio così, che uno telefona a casa sua e ha in cambio una poesia. Orari d'ufficio, diciamo. Non a casa, a scuola. A scuola, anche ecco. Se a ranghi ridotti, però... Direzione e segreteria sono ancora aperte. Oggi no, oggi mi state chiamando a casa perché è sabato e quindi non è aperta la segreteria. Però dal lunedì al venerdì la segreteria è aperta regolarmente dalle 8 alle 14. Quindi noi possiamo serenamente pubblicare il numero. Dalle 9 alle 15, assolutamente sì. Anzi, se volete lo diamo anche in diretta. Sì, però poi lo mettiamo anche su Facebook, perché così almeno rimane. Comunque ce lo dica. È 0362 23 72 21. E allora noi facciamo finta. Dalle 9 alle 15 circa io sono in ufficio, quindi possono chiunque può chiamare e io leggo molto volentieri una poesia al telefono. Allora, 03, sì, esatto, 0, lo ripeto un attimo, 0362 23 72 21 dal lunedì al venerdì, sì, dalle 9 alle 15 per, sì, una poesia. Questa settimana qual è l'autore, allora, che ha scelto? Questa settimana, l'ultimo giorno, anzi è stato ieri ovviamente, però è l'ultimo giorno di una poetessa polacca che spero di pronunciare correttamente, perché per un italiano pronunciare i nomi polacchi non è mai facile. Bislava, e su questo sono sicuro, sul cognome un po' meno, Zimborska, spero di pronunciarla correttamente, Bislava Zimborska, credo che si dica Zimborska, e qualcuno mi ha detto che si dice così, io sinceramente, non conoscendo il polacco, la pronuncio come scritta. È una poetessa straordinaria, penso una delle più grandi del Novecento a mio parere. Naturalmente io la leggo in traduzione perché non sarei in grado di leggerla in lingua originale, ma quello che io trovo straordinario di Wislaw è questa sua capacità di mescolare i massimi sistemi e la quotidianità. Non so, per lei mescola l'anima con le scarpe strette, oppure mescola il senso dell'esistenza con un ombrello perso sul treno. Quindi ci riporta anche a quel senso della quotidianità che in questi giorni è fortemente, come dire, messo in crisi da questa emergenza. E allora, dato che io sono convinto che tutto ciò che è bello, in questo caso la poesia, possa contribuire ad aumentare le difese immunitarie, ho detto, beh, facciamola questa cosa. Chiamate, io vi leggo molto volentieri una poesia al telefono. Questa settimana appunto era la settimana della Zimborskaya. Comunque ci perdonerà, ci perdonerà. O se c'è un ascoltatore polacco ci chiami. Sono più tranquillo perché abbiamo Gaio, Valerio, Catullo e su quello la pronuncia so che è corretta. Andiamo sereni. Ce ne legga una anche per noi e per gli ascoltatori. Io di solito faccio così, cioè ho il mio libro davanti con tutte le poesie di Wislava, così non sbagliamo sulla pronuncia, e faccio un esercizio che io chiamo di bibliomanzia, cioè apro a caso il libro e quella che capita, capita. Quindi procedo in questo esercizio di bibliomanzia, ecco qui, allora ho capitata una, neanche farlo apposta, delle, a mio parere, delle sue più belle, si intitola La cipolla, proprio per tornare a quello che dicevamo prima, un Nobel che fa una poesia sulla cipolla è decisamente curioso. La cipolla è un'altra cosa, interiore non ne ha, completamente cipolla fino alla cipollità, cipolluta di fuori, cipollosa fino al cuore, potrebbe guardarsi dentro senza provare timore. In noi ignoto e selve di pelle appena coperti, interni d'inferno, violenta anatomia, ma nella cipolla, la cipolla, non visceri ritorti. Lei è più volte nuda fin nel fondo e così via. Coerente è la cipolla, riuscita è la cipolla. Nell'una ecco sta l'altra, nella maggiore e la minore, nella della successiva, cioè la terza e la quarta, una centripeta fuga, un eco in coro composta. La cipolla, d'accordo, il più bel ventre del mondo, a propria lode di aureole, da sé avvolge in tondo, in noi grasso, nervi, pene, muchi e secrezioni, e a noi resta negata l'idiozia della perfezione. Ecco qua. Grazie, grazie. Sa che grazie. Abbiamo veramente dalla Polonia ricevuto un messaggino su come si pronuncia? Come si pronuncia? Allora, leggo. Wisława Szymborska. ragazzi, no, no, non ci potrei mai arrivare. Va bene, comunque a noi piace la cipolla. Ci piace la cipolla e la sua cipollità. Grazie. Sì, sì, sì. Molto bella, grazie mille. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Ricordate, se volete la vostra poesia, anche a lei, se volete una poesia per la vostra giornata, potete chiamare Gianni Trezzi, preside del liceo Parini di Seregno. Il numero ve lo rimettiamo poi su Facebook. Adesso abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo, sono molto preoccupata, sai perché? No, dimmi. Perché sta scrivendo ancora qualcosa e l'ascoltatore dalla Polonia deve avere sbagliato perfino nella lettura. Non va. Vedo il messaggino. Questo... Sai quando è scritto sta scrivendo. E io mi domando, giusto, cosa sta scrivendo questa persona, uomo o donna che tu sia. Ti prego, sì, così, no, perdonami sulla pronuncia del polacco. Ci mancherebbe. Io invece, a riprova di quello che dicevo prima, ovviamente sono andato su Wikipedia a verificare la data di morte della Szymborska, che è il 2012, ma esatto, ma soprattutto il fatto che ha vinto il premio Nobel nel 96, preciso io, esatto, che me l'ero già scritto, ma che vedo anche sbircio qui tra i messaggi. Tu non hai i Wikipedia che io ho qua davanti con i messaggini degli ascoltatori, altro che gratis oltretutto. Allora, senti, di professore in professore, perché passiamo da un preside a Seregno che ci recita le poesie in diretta, a Germano Pettarina, che è professore di matematica, anche autore di diversi libri, anche per ragazzi. L'ultimo, Le cose non quadrano, ci vogliono i cerchi, di Einaudi. Buongiorno, professor Pettarin. Oh, buongiorno a voi. Allora, a buongiorno. Buongiorno, posso fare l'appello? Faccia l'appello, vai. Certo. Pettini. Presente. Leopardini. Presente. Presente però in videoconferenza. È anche arrivato in ritardo Leopardini oggi, ha portato la giustificazione. È verissimo, certo che ho la giustificazione. Adesso le giro il numero di mia mamma. Va bene, grazie. Allora, no, io mi sono ovviamente letto, ammetto velocemente i suoi libri, perché ovviamente i tempi sono quelli che sono, abbiamo tante cose da leggere, poi Carlo mi impone la lettura di un sacco di cose, visto che lui è sempre propositivo di libri e così via. Però mi è piaciuto tantissimo questo delle cose non quadrano, ci vogliono i cerchi, perché tra l'altro è proprio adatto al periodo, cioè tutti sono necessari per l'obiettivo. No, non trova che sia anche un po' una metafora del tempo? Beh sì, senz'altro. In questo libro appunto viene proprio messo già nel titolo in evidenza che i cerchi o in generale le figure tonde sono necessarie, perché proprio nei miei libri l'idea appunto nasce che i numeri non sono degli oggetti, ma sono proprio dei personaggi dei libri, quindi vivono insieme, baruffano tra di loro, hanno la loro vita quotidiana seguendo però le regole matematiche, e in questo caso una delle baruffe di questo libro sono proprio contro i cerchi e lo zero, che sono, se si vuole, il numero e la figura geometrica diversa dagli altri, che non seguono le regole. Esatto, ed è un libro che è divertente leggere appunto anche per quello che lei ci diceva, ma è anche molto adatto, formativo per i bambini, per i quali lei ha pensato sicuramente questo libro, che ha anche delle splendide illustrazioni. Insomma, è un po' un trucco per insegnare la matematica, no? Che è una materia che i bambini sono, come dice, delle spugne, diciamo, possono apprendere molto facilmente, ma che tante volte i genitori rendono un po' misteriosa e un po' pericolosa per paure che hanno loro come adulti. Sì, effettivamente quando vado in giro a presentare il libro i bambini sono entusiasti della matematica, non so se lo fanno apposta perché sono stati istruiti, ogni volta che gli chiedo di piace la matematica, tutti rispondono sì, sì, è bellissima, poi probabilmente succede qualcosa dopo, o perché la materia diventa forse un pochino più complicata, o perché comincia ad arrivare le brutte esperienze, cioè arriva il voto brutto e tac, e questo... Sembra definitivo. Sì, è come fare un incidente con la macchina, secondo me. Sì. Ma quindi il titolo La matematica fa schifo, che mi sembra un bel titolo di un libro edito Einaudi ragazzi 2017, La matematica fa schifo, è più un titolo per i genitori che per i bambini? No, in realtà quella lì è la frase che sento sempre ripetere appena consegno i compiti in classe, che è andato male, mi dice la matematica fa schifo e non sono portato per la matematica, questa è l'altra frase che a me dà un fastidio incredibile, che cosa significa che non sei portato, cioè come dire... che non sono portato per correre, tutti sanno correre, ma chiaramente non tutti diventano un campione delle Olimpiadi, però siamo tutti che possiamo fare matematica, questa è una, diciamo che è un nascondersi con questa storia che uno deve essere nato con la matematica in testa, che non è assolutamente vero. Che poi dopo non si dice per molte altre materie, cioè si dice per i componimenti di italiano ma di alto profilo, dice non sono uno scrittore, no? Però poi dopo per un compito di grammatica nessuno dice non sono portato per la grammatica. Ma infatti sì, sicuramente la matematica sì, chiaramente non possiamo dire che è una materia facile, perché a un certo punto cominciano a apparire 3.000 parentesi, 3.000 elevamenti a potenza e non si capisce poi i problemi che vengono proposti e sono così forse astrusi, fuori realtà, cosa vi interessa a me di sapere l'area di un poligono iscritto in un cerchio, sì. Però ricordiamo gli ascoltatori che sta parlando un professore di matematica. Non creare il pregiudizio. No, mi sembra stupendo sentire un professore che dice tutti sti numeri, ste parentesi, a un certo punto non si capisce veramente più niente. Mi sembra molto bello detto da un professore. Ma sa, me lo sento dire quasi ogni giorno a parte in sto periodo. Giusto. Invece lì io cerco sempre di far capire quando spiego il perché, sia il perché di una regola, ma sia perché anche di queste operazioni così lunghe e complicate, perché dà una strategia questo per risolvere i problemi. Cioè, è chiaro che nessuno nella vita si troverà mai nel suo lavoro a risolvere un esercizio complicatissimo, ma riuscire a imparare che la strategia è dividere in sottoparti, sapere che strumenti si ha a disposizione, conoscere come usarli, quindi conoscere le regole, capirle e sapere come applicarle, sono tutte strategie che poi nel problema reale che avrai nella vita ti serviranno. Ma in realtà adesso alcune cose si usano poi nella vita, adesso mi è capitato recentemente appunto tra i lavori che si fanno quando si sta in casa di dover... dare una mano di bianco, no? Alle pareti, uno si domanda: ne ho abbastanza, fa i calcoli in metri quadri, cioè non è che proprio sia tutto così lontano dalla nostra quotidianità. No, beh, certo, la matematica è dappertutto obiettivamente. Se io sono per strada a calcolare il percorso più agevole, più corto per arrivare in un certo posto, se si potesse giocare a carte con gli amici, sì, la matematica si va a comprare qualcosa. O dividere una pizza in parti uguali, sicuramente le frazioni, e veramente la matematica poi alla fin fine è dappertutto, anche se uno non se ne rende conto. Senta, e quindi... Ma infatti le volevo chiedere... Volevo chiedere una cosa rapidissima, mi chiedevo con l'avvento dell'informatica, che ovviamente ultimamente è ai miei primissimi posti, mi chiedevo se la matematica avesse guadagnato in appeal nei confronti dei giovani, cioè se ci fossero più persone che invece si appassionano alla matematica perché sanno che quello poi è un modo, diciamo, per arrivare all'informatica. Beh, sicuramente, cioè l'informatica... E ragionamento, io sono arrivato in informatica in particolare, quindi la matematica sì, è sicuramente collegatissima all'informatica, perché come in informatica bisogna ragionare per costruire un programma, la matematica ti insegna a ragionare, ti insegna la logica, ti insegna a capire un passaggio cosa porta, esattamente come scrivere un programma computer. Ok, certo. Allora oggi è la giornata della matematica. Oggi sì. Quindi così è un buon momento per pensare a quanta matematica c'è nella nostra vita. Nella mia ce n'è una molto precisa, che è quella del tempo che scorre qui davanti agli occhi, e so che abbiamo la bellezza di 15 secondi, 14 secondi prima di salutarci, quindi grazie professore per questo collegamento, buon proseguimento. Grazie. Carlo, ci ritroviamo subito dopo GR24 con tutti gli ascoltatori, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I met him in a crowded room, where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running crowd. Tanto successo ha avuto il preside lettore di poesie, tanti ci chiedono di ripetere il numero di telefono, ora ve lo ridico, ma in ogni modo, come dicevo, lo pubblicheremo su Facebook, diciamo subito, il prima possibile, in modo che sia disponibile immediatamente dopo la trasmissione. Allora, il... posso dire che è straordinario intanto il fatto che sia un numero fisso, sì. Da quant'è che non diamo dei numeri fissi? Allora, fate caso effettivamente anche a questo, perché se non riuscite a memorizzare il numero, memorizzate però che si tratta del dirigente del liceo Parini di Seregno, ecco, ritroverete sicuramente il numero di telefono, perché quello, la guida telefonica o cartacea o su internet, comunque fornisce il numero fisso, questo non c'è dubbio. Siamo anziani, Laura, credo che oggi siamo gli unici che andiamo in onda. Esatto, dicendo sia numero di telefono fisso sia gli elenchi cartacei. Boh, io non lo so, comunque 0362 23 72 21. Giocateveli anche all'otto, che magari qualcosa viene fuori, chi lo sa. Allora, e poi li rimettiamo su internet. Però vogliamo dare un messaggio, non dico di speranza, ma almeno di prospettiva. E la prospettiva in questi giorni in cui la nostra emergenza è il coronavirus, ce la può dare solo chi l'ha già vissuto questo periodo e sta vivendo, diciamo, qualche mese avanti a noi. Allora ci colleghiamo con la Cina, in particolare ci colleghiamo con Shanghai, con Raffaele Tamborrino, buongiorno. Buongiorno a voi. Oh, che bello, la sentiamo molto bene, eravamo preoccupatissimi perché prima sentivamo a strappi. Allora, Raffaele Tamborrino è un avvocato, general manager di ICN Partners a Shanghai, ma è anche autore di Lettere a Sofia sulla felicità, lezioni di vita ispirate da Socrate, Platone e Aristotele. Quindi lei ha una formazione anche un po' filosofica, direi. Certo, io ho fatto degli studi classici, sono un appassionato di filosofia e direi che in questo momento c'è bisogno di molta filosofia. Esatto, esatto. Allora, la prima domanda... Un manager dal cuore umano. Speriamo che non pochi. Allora, la prima cosa ovviamente vogliamo sapere un po' com'è la situazione a Shanghai oggi, cioè dopo la grande emergenza, adesso come si sta vivendo la quotidianità? Beh, oggi è una bellissima giornata di sole a Shanghai, e la gente è per strada, ci sono le famiglie che visitano i parchi, per cui diciamo che la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se tutti continuano ad adottare le misure di precauzione richieste anche dal governo, tutti indossano le mascherine, c'è un monitoraggio molto forte, molto capillare, in qualunque posto si entri, in un ristorante o se si va in ufficio, ci viene richiesto di misurare la temperatura corporea, io oggi l'ho misurata almeno 3 volte, quindi il messaggio che... Bene, bene, grazie. A quant'è la temperatura? Perché Carlo c'ha la temperatura più bassa d'Italia, capito? Per quello lo chiedo. Esatto, io quando entro al sole di solito mi misurano 33,9, quindi mi preoccupo perché sono tecnicamente morto, allora volevo sapere lì in Cina come andava. No, comunque il messaggio di speranza che voglio lanciare è che qui ormai ci sono circa 10 nuovi casi positivi ogni giorno, quindi la Cina è riuscita a mettere sotto controllo l'epidemia. Tra l'altro alcuni di questi casi sono casi importati, sono persone che arrivano dall'estero, quindi c'è la possibilità di sconfiggere questo virus. Qui sono state adottate delle misure molto severe e soprattutto c'è stata una fortissima collaborazione da parte dei cittadini cinesi, ma anche stranieri che vivono come me qui in Cina. C'è stato un periodo che anche noi siamo stati costretti a stare a casa e gli spostamenti sono stati molto limitati, e quindi dopo circa un mese si comincia a vedere la luce. Se vogliamo, come dire, utilizzare una frase storica, mi viene in mente la frase della Bibbia, della sentinella della Bibbia, al viandante nel deserto, alla domanda a che punto la notte, la sentinella risponde: la notte sta per finire, ma l'alba non è ancora spuntata, non vi stancate, insistete. Questo è il messaggio che lanciano oggi le autorità governative ai cinesi, cioè non abbassate la guardia, anche se il peggio è passato ormai, bisogna continuare ad adottare le misure di prevenzione. E io penso che anche in Italia, se tutti fanno la loro parte, stanno a casa, evitano contatti, evitano di incontrare altre persone, comunque diciamo fanno questo piccolo sacrificio di rinunciare a una parte della loro vita sociale, presto si riuscirà a sconfiggere anche in Italia questa grave minaccia. Le volevo chiedere una cosa: lei quando ha scritto lettere a Sofia sulla felicità, la Sofia in questione era sua figlia, giusto? Certo, mia figlia. Che non so adesso la sua famiglia se vive con lei in Cina o se è in Italia, ma sicuramente lei ha parenti e amici in Italia. Cioè anche vivere una situazione così a distanza, no? Con una situazione di emergenza, come la si può vivere con filosofia, per l'appunto? Beh, diciamo che per fortuna le nuove tecnologie ci vengono incontro, per cui sebbene la mia famiglia, mia figlia e mia moglie vivano in Italia, io mi sento quotidianamente con loro e in questo periodo anche seguo mia figlia nelle attività scolastiche, perché come tutti i bambini e i ragazzi italiani non sta andando a scuola e quindi fa i compiti a casa e quindi devo seguirla. Anche io, oltre mia moglie, attraverso Skype o altre tecnologie riesco in qualche modo ad aiutarla in questo senso. È chiaro che c'è molta apprensione da parte nostra, da parte degli italiani che vivono all'estero, per quello che sta succedendo in Italia, e soprattutto siamo preoccupati per i nostri familiari. Però cerchiamo ovviamente di guardare con ottimismo e anche di trasferire ottimismo ai nostri familiari che adesso stanno vivendo questo difficile momento in Italia. Una lettura filosofica che ci può consigliare? Beh, sicuramente gli stoici in questo momento sono i filosofi che possono aiutare. Tutta una domanda stupida la mia, poteva arrivarci. No, molto giusta. No, è sicuramente una domanda intelligente, e la filosofia stoica, in particolare Seneca, possono aiutarci a guardare, insomma, con ottimismo, nonostante le difficoltà, a questo periodo, a capire che nonostante le difficoltà possiamo cercare in noi stessi e nelle nostre energie interiori le forze per superare questo momento. Carlo, non voglio saltarti sopra, perché non vedendoci non so se volevi intervenire, certo, o chiedere. Certo. No, volevo chiedere una cosa. Intanto mi fa molto piacere, invece trovo molto intelligente la domanda su quali filosofi leggere, e ottima la risposta di leggere gli stoici. E volevo chiedere una cosa, approfittando del fatto che lei è in Cina. Lei ci ha detto a Shanghai ancora oggi tutti indossano le mascherine. Ah, l'abbiamo perso sul più bello, sulla domanda. Chissà cosa voleva chiederle Carlo Gabardini, vediamo se riusciamo a ricollegarlo rapidamente. Io comunque sono contenta, insomma, di queste notizie che lei ci dà, anche se sono, diciamo, preoccupata da, tra virgolette, insomma, da questi strascichi, nel senso che resterà sempre quel senso un po' di paura dell'altro, sia pur amico, però sempre un po' a distanza. Carlo, sei tornato? Aspetta un attimo. Sono tornato. Chiedo scusa, non so fino a che punto si è sentita la domanda. Praticamente non si è sentita, si è sentito ABC e poi è caduto. Perfetto. Rifalla velocemente, dai, rifalla velocemente. Volevo semplicemente sapere se questa questione del fatto che a Shanghai, come abbiamo sentito, che non è Wuhan, però ancora si usano le mascherine e i guanti, volevo sapere se si aveva un orizzonte nel quale dicono fra due mesi non le dovremo più mettere. No, purtroppo no, allo stato attuale non ci sono queste indicazioni, da considerare che anche le scuole tuttora sono chiuse a Shanghai e almeno fino a fine aprile continueranno ad essere chiuse. E per quanto riguarda appunto queste misure precauzionali, tra l'altro si tratta poi di una consuetudine, un'abitudine che non comportano troppi problemi, alla fine della fiera ci si abitua a tutto e adesso non è, anche per me non è più un problema indossare sempre la mascherina e i guanti, è una misura precauzionale tutto sommato minima che serve a evitare problemi più importanti, più gravi. Grazie. Sì, è che speriamo di non farlo per tutta la vita. Grazie mille comunque. Speriamo di no. Allora, grazie Raffaele Tamburrino che era collegato con noi da Shanghai. Abbiamo la viabilità tra poco. Si può fare. One Express. One Express. Il pallet espresso. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arrivano altri suggerimenti per la lettura, per letture filosofiche, ad esempio arriva, suggerisco leggere o rileggere Caducità di Freud, questo almeno scrive Sabina, poi c'è chi parla di Eraclito, insomma ci sono vari suggerimenti, abbiamo rispolverato gli studi, no, delle scuole superiori, Carlo. Vero, verissimo, invece visto che grazie ai potenti mezzi di Radio 24, del Sole 24 Ore, posso leggere anche da casa gli sms, cioè un sms che ci spiega che se usi il termometro digitale la temperatura risulta circa 2 gradi inferiore a quella del termometro non digitale. È qualcuno che scrive per tranquillizzarmi, per dirmi che non sono morto avendo io 33,9 di temperatura, però mi sembra un dato interessante per tutti, perché in questo momento è dove molti di noi vengono misurati quando vanno a lavorare. Sì, però alla fine mi crea una confusione, va bene, comunque non so. Vero, perché questa allora è la mamma che parla ed è molto giusto. Mi crea confusione, ditecelo, no? Così quando vediamo sul termometro scritto 36, a quel punto ci abbiamo 38, boh, non lo so. È un messaggio, quindi ricordiamo anche agli ascoltatori che non è per forza scienza, magari è un messaggio non del tutto corretto, però non lo so, non mi lo sembrava so. Tranquillizzante. Adesso cerchiamo un produttore di questi termometri, un esperto di questi Bravissima. Termometri, ce lo facciamo dire direttamente dalla e ci fonte. Facciamo tutta la puntata di domani. Precisamente, precisamente. Allora, adesso tiriamoci un po' su di morale, pensiamo a quando, mascherina o non mascherina, potremo andare per boschi. Pensiamo un po' alla natura anche che ci circonda, dopo, peraltro giusto. Ci fa bene pensarci anche adesso perché comunque ci allarga un po' la testa. Io a volte, Carlo, in questi giorni ho l'impressione di essere dentro un enorme infinito pranzo di Natale, che hai sempre la testa un po' piena, sei chiuso in casa, hai mangiato troppo, forse anche bevuto troppo, non puoi uscire a passeggiare perché hai lì tutti i parenti e ti tocca. Ecco, mi sento un po' in quella situazione lì di oppressione. E tra l'altro questo è un altro dei grandi temi, perché si dice che stiamo tutti ingrassando perché siamo a casa a mangiare preoccupati, quindi esattamente come a Natale, come se fossero dei lunghissimi pranzi di Natale. Apro una parentesi che chiudo subito, purtroppo io invece sono a dieta, perché il mio fidanzato invece, io sono qua a pesare i ceci, che mi sembra folle in un periodo dove sembra che siamo in guerra e invece siamo qua a dire ma 20 grammi di bresaola, però insomma finirà anche questo. No, vabbè, ma anche fare la fame chiuso in casa, no, ragazzi. Allora, va bene, torniamo a parlare di boschi, perché è arrivata questa settimana una bella notizia che non riguarda ovviamente la questione dell'emergenza, ma riguarda i nostri boschi. Nuovi boschi in Lombardia e Toscana hanno ottenuto da FSC il bollino verde per i benefici ecologici offerti. Allora, noi vogliamo chiedere a Ilaria Dalla Vecchia, che è responsabile tecnico della gestione forestale di FSC Italia, che cosa vuol dire, che significato ha questo bollino verde, che benefici ecologici sono stati certificati. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, sì. Che cosa significa intanto? Allora, è proprio vero, perché due realtà forestali pubbliche, ERSAF, che è l'ente regionale per la gestione delle foreste e dell'agricoltura, e l'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, hanno ottenuto la verifica degli impatti positivi della gestione responsabile su aspetti ambientali come il sequestro della CO2, e servizi ricreativi e la regolazione idrica. Cioè, grazie alla certificazione FSC, queste realtà hanno verificato che la loro gestione è davvero virtuosa, perché hanno addirittura migliorato il sequestro del carbonio e hanno aumentato i servizi turistici e hanno migliorato anche i servizi idrici. Quindi adesso che li abbiamo certificati, che cosa ci cambia? Cioè, c'è un'applicazione pratica di questo, oppure abbiamo la fotografia e punto? No, allora, grazie a questa certificazione del Forest Stewardship Council, FSC, che promuove la gestione forestale responsabile, queste foreste potranno finalmente promuovere la loro gestione forestale virtuosa, e lo potranno fare non solo in Italia ma anche all'estero, perché il nostro marchio è un marchio internazionale. Quindi, quando un semplice turista, una persona che vuole andare a camminare nel bosco, passerà attraverso queste foreste, potrà leggere, potrà capire quanti benefici hanno dato l'ambiente. Perché infatti sono riusciti proprio a calcolare le tonnellate di anidride carbonica che hanno sequestrato, cioè che hanno fissato i loro boschi, e per esempio in Lombardia hanno fissato 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che sono pari alle emissioni medie di oltre 184.000 auto. Quindi una persona che andrà a camminare in quel bosco sosterrà volentieri la gestione di quell'ente, proprio per i benefici che avrà portato su tutto il territorio italiano. E boschi che vanno comunque accuditi, non è che sono dobbiamo. Boschi, sì, che vengono gestiti. È importante sottolineare questa cosa, perché un bosco deve essere gestito, non può essere abbandonato, perché quando viene abbandonato genera impatti negativi. Invece in questo caso la gestione virtuosa negli anni ha portato a creare dei boschi in salute, resistenti, soprattutto resilienti anche a quello che appunto oggi sentiamo come cambiamento climatico. Questo è davvero importante, ed è proprio la certificazione FSC che lo può garantire. Io trovo che sia una bellissima cosa. Altri boschi che state seguendo? Allora, ci sono altri boschi in Italia. Perché insomma a questo punto li vogliamo, no? Li vogliamo tutti, sì. Belli certificati, con tutti i loro benefici, chiari magari, e semplici da capire. Sì, sarebbe spiccabile tutti i boschi, però in realtà in Italia loro sono... C'è un altro esempio molto virtuoso, che è una realtà, diciamo, che riguarda il Trentino, parte del Veneto e della Lombardia più orientale, ed è il gruppo di certificazione Valplas, in cui sono stati verificati anche altri servizi come la conservazione della biodiversità e la protezione del suolo. Quello che è importante è riuscire anche a comunicare alle persone quanto sia importante la gestione del bosco, perché quando si va fuori, si va a camminare, si va a passeggiare, forse queste informazioni non sono sempre chiare, perché si pensa che tutto sia effettivamente normale, che ci sia una gestione, che i sentieri siano puliti. Invece questi tipi di certificazioni permettono proprio di quantificare e di verificare negli anni che il gestore abbia rispettato tutti i requisiti della certificazione FSC. Quindi dovremmo un po' dubitare di chi non ce l'ha in realtà. No, sarebbe meglio sostenerla sicuramente, e di fatto la certificazione proprio anche andrà, che voi potete tutti quanti potete vedere, in un prodotto certificato va a dimostrare che quel prodotto proviene da una gestione forestale responsabile. Meglio informarsi, ecco, la cosa importante è informarsi, chiedere informazioni, entrare in un bosco e sapere che cosa fa l'ente, il gestore, quali tipi di iniziative ci sono, e se ci piace, se ci interessa, magari anche sostenerle, partecipare a qualche serata, qualche, diciamo, realtà di informazione, così per informarsi su su che cosa viene fatto in quell'area, quali sono le specie più importanti, perché crediamo sempre più che è importante anche conoscere proprio l'area forestale dove che si frequenta. Grazie Ilaria, io non so Carlo, hai una domanda da porre alla nostra ospite? Sì, volevo capire nel concreto se riusciamo a dire con parole molto semplici quali sono i benefici ecologici e sempre se non è una cosa troppo tecnica in realtà come vengono misurati, perché noi spesso, non so, parliamo di CO2, parliamo certo. di alberi, di tutte le cose buone che fanno, ma quali sono proprio per le persone singole i benefici ecologici? Sì, allora in maniera scientifica si chiamano servizi ecosistemici. Il primo fra questi è la conservazione della biodiversità. È già difficile questo. Ok, allora teniamo servizi naturali, se ci piace di più. E il primo di questi è la conservazione della biodiversità. Quindi per biodiversità si intendono tutte le specie vegetali e animali che popolano un bosco. Quindi quando si chiede di andare a calcolare o andare a verificare la conservazione della biodiversità, si vanno a verificare gli habitat che ci sono presenti e se questi sono stati degradati o se invece sono stati migliorati. Poi abbiamo lo stoccaggio e il sequestro del carbonio. Anche qui le foreste sono molto importanti perché assorbono l'anidride carbonica e la trasformano in energia. Quindi andando a calcolare quanto crescono queste foreste e le specie forestali che sono presenti in un bosco, noi sappiamo quante tonnellate di anidride carbonica vengono immagazzinate proprio per i processi di fotosintesi. Poi abbiamo i servizi di regolazione idrica, quindi in questo caso sappiamo quanto viene filtrato a livello di acqua potabile nelle falde, quindi anche qui è la possibilità di andare a, per esempio, conteggiare le sorgenti d'acqua e calcolare quanta acqua potabile e la qualità di quell'acqua. Un altro servizio è la conservazione del suolo, quindi il fatto che ci sia una copertura forestale permette di garantire che quel suolo non venga eroso, non venga degradato, quindi si possono andare a conteggiare calcolare le proprietà nutritive presenti all'interno di un suolo forestale. E poi ci sono tutti i servizi ricreativi, quindi quanto è accessibile quella foresta, tutte le aree di sosta, le piazzole, i sentieri, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi servizi che normalmente noi diamo per scontato sono garantiti da una gestione attiva del territorio e la certificazione FSC serve proprio per questo, per andare a conteggiarli e andare a verificare che siano conservati e migliorati. Grazie, grazie molte. Ilaria grazie. Dalla Vecchia, come dicevamo, responsabile tecnico della gestione forestale di FSC Italia. Io darei il benvenuto a un'altra ospite che è Nicoletta dalla provincia di Milano che ci ha chiamato per concorrere al quiz. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie della pazienza nell'attesa. Oggi siamo così, siamo un po' imballati, ma meglio per noi se abbiamo tante cose da dire, tante cose da chiedere. Allora Nicoletta, le leggo il quiz, il quiz numero 2 della giornata, virale ma in senso positivo. C'è un video che ha protagonisti l'anziana signora Dora e il suo gatto Mimmo, che in questi giorni sta rimbalzando sui social. Che cosa mostra questo video? Risposta numero 1. Mostra Dora e Mimmo che si ritrovano miracolosamente a più di 3 anni dal terremoto del centro Italia. Mostra le capacità culinarie del gatto addestrato dalla signora Dora e a preparare da solo le tagliatelle. Risposta numero 3. Mostra il gatto Mimmo che infila la mascherina alla sua anziana padrona. Accidenti. Quindi le 3 risposte sono Dora e Mimmo miracolosamente che si ritrovano dopo il terremoto, oppure il gatto che fa le tagliatelle, oppure il gatto Mimmo che mette la mascherina alla sua padrona. Le tagliatelle le escluderei. Sì. Potrei provare, visto che si parla di virus, la 3, il gatto che mette la mascherina alla padrona. Paro. Sentiamo il nostro inflessibile notaio. L'avevamo anche aiutata, perché Laura molto gentilmente aveva aperto dicendo virale ma in senso positivo. E niente, in realtà sono Dora e Mimmo che si ritrovano miracolosamente 3 anni dopo il terremoto nel centro Italia. È un video molto commovente. Allora, l'824-0024, comunque si può ancora concorrere. Grazie Nicoletta, lei non può concorrere, ma la prossima volta sì, la settimana prossima magari sì. Grazie ancora, tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È proprio così, c'è un altro quiz pronto per voi e c'è un altro ascoltatore già in linea che è Alex. C'era Alex da vicino, da Monza, ma è appena caduto, Micono. Va bene, adesso lo recuperiamo. Carlo, ci sono davvero tanti ascoltatori, segno che siamo davvero a casa, che stiamo seguendo le indicazioni, no? E quindi concorriamo ai quiz e vogliamo vincere i libri da leggere a casa, perché noi regaliamo libri adesso, giusto? Perfetto, mi sembra un circolo virtuoso. Uno telefona stando a casa, riceve un libro stando a casa, lo legge stando a casa, praticamente non c'è bisogno di uscire. E poi a un certo punto, quando uscirà finalmente, tornerà a rivedere le stelle, no? E sarà preparatissimo. Esattamente. Allora Alex, adesso c'è veramente. Alex, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, le leggo il quiz che riguarda l'Università di Sydney. All'Università di Sydney un gruppo di ingegneri chimici ha sviluppato un nuovo sistema green per accumulare e immagazzinare l'energia elettrica. Che cosa stanno sviluppando? Risposta numero 1: delle gelatine al litio per rendere l'elettricità spalmabile e vendibile in barattoli. Risposta numero 2, dei marsupi ispirati a quelli dei canguri che rilasciano energia quando si salta. Risposta numero 3, delle super batterie ricaricabili realizzate con la frutta tropicale. Sembrano tutte e tre folli, ma una è meno folle. Le gelatine al litio, i marsupi che rilasciano energia, delle super batterie ricaricabili con la frutta tropicale. Io la sparerei perché dico sinceramente non saprei scegliere. Direi l'ultima, la terza. La terza, quindi le super batterie ricaricabili. Ed è giusto così, ed è giusto così. Proprio sparata. Sparata. Dai, noi facciamo finta che invece lei non lo sapeva perfettamente, non ha sparato. Allora, Alex, grazie per aver chiamato. Per lei ci saranno ovviamente dei libri. Come dicevo, vi ricontatta il centralino lunedì, perché c'è tutta una questione di indirizzi, ovviamente, di spedizioni. Però, appunto, resti all'ascolto, abbiamo ancora da parlare di alberi tra pochissimo. Per parlare di alberi abbiamo in collegamento Andrea Loreti, responsabile animatore dell'iniziativa Alberi in Periferia. Siamo a Roma. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo sentito quali meravigliosi benefici arrivano da dei boschi, tra l'altro se ben accuditi. Boschi non sono quelli che voi piantate, ma alberi sì, no? Giusto? Cosa avete fatto? Esatto, guarda, la nostra idea è stata un gruppo di amici di dirci bene la nostra sensibilità sulle tematiche ambientali, ma come possiamo però poi tradurre questo in azioni pratiche. Giustissimo, ovviamente, fare raccolta differenziata e tutte quelle azioni quotidiane che sono di fondamentale importanza, ma ci siamo chiesti poi come in maniera tangibile dare il nostro contributo. E quindi da circa 6 mesi fa abbiamo messo insieme questo gruppo di di persone, di amici, questa comunità, e piantiamo alberi e li piantiamo in città, e in particolar modo li piantiamo nelle zone periferiche della città, quindi dove oltre al bisogno e all'obiettivo ambientale ed ecologista c'è una valenza forte sociale, nel senso che oltre a tutti i benefici che abbiamo detto prima a livello ecologico, gli alberi hanno un grandissimo impatto poi sulla qualità della vita, sul benessere anche psicologico di noi che viviamo in città. E quindi anche un segnale di attenzione, no? di territorio curato, cioè c'è tutto un messaggio che arriva con un nuovo albero. È esattamente questo, perché spesso, anche per fare una nazione un po' diversa dalle periferie, spesso le periferie vengono accompagnate solo per il loro degrado, per le loro difficoltà, ma in realtà non è così, nel senso ci sono anche delle realtà bellissime in periferia, dei bei centri, delle belle associazioni che fanno tante cose, e quello che noi cerchiamo di fare è fare rete, quindi portare il nostro contributo di bellezza anche in posti dove soprattutto c'è ancora più bisogno di questo. E l'abbiamo fatto in diversi quartieri della periferia romana dove c'era particolarmente bisogno. E come dicevi giustamente tu, spesso un parco più o meno abbandonato, se poi ci sono 10 o 20 alberi nuovi, soprattutto in questo periodo che arriva inizia la primavera e cominciano a fiorire, diventa un posto completamente diverso, un posto dove è più bello vivere e dove è più sano vivere. Sì, tra l'altro si verifica anche quella sensazione tipica degli stadio, no? Quando uno stadio è abbandonato, maltenuto, così chi va a tifare poi non è incoraggiato a curare l'impianto. Quando è tutto più bello, più c'è un aspetto di cura, allora poi tutti vogliono curare, che sia il quartiere periferico o centrale, alla fin fine diventa più difficile maltrattare un luogo che ha una sua attrattiva, che è ben tenuto, che è curato. Assolutamente, considerate poi quando noi piantiamo gli alberi, ovviamente vanno curati questi alberi, perché soprattutto nei primi tempi è necessario poi accudirli dal dell'acqua. Quello che noi cerchiamo di fare è di fare rete, quindi prendiamo sempre contatti con associazioni di quartiere, comitati di quartiere, associazioni non profit, che poi sono loro ad adottare quegli alberi. E spesso lo facciamo con i bambini, e quindi sono proprio i bambini che piantano insieme a noi gli alberi, li adottano, gli danno un nome, e poi saranno loro che fisicamente nei periodi di siccità, quando non pioverà, prenderanno cura. Quindi c'è anche un aspetto anche un po' culturale, educativo, che cerchiamo di portare avanti con questa nostra attività. Bene, l'ultimo è stato piantato a Torbella Monaca, vero? Sì, noi siamo partiti. Il centesimo, non l'ultimo, perché poi chissà. Noi siamo partiti 6 mesi fa e ci siamo detti, ok, diamoci un obiettivo, piantiamo 100 alberi. E ci sembrava un obiettivo davvero irrealizzabile, perché siamo partiti dal basso, non abbiamo finanziamenti, non siamo una grande associazione. E invece dopo 6 mesi l'abbiamo raggiunto e invece siamo dati subito un altro obiettivo, che è piantarne altri 100 e poi cercare di fare quello che noi chiamiamo un vivaio sociale. Ci piacerebbe mettere su un vivaio in cui coltiviamo le piante che poi andremo a piantare e che ogni associazione possa venire a prendere gratuitamente piante da andare poi a piantumare. Torbella Monaca è stato il 100° albero, è stato bellissimo perché anche chi non è di Roma spesso sente Torbella Monaca solamente per notizie pesanti e negative. In realtà lì c'è un centro molto importante che fa attività di educazione, di scuola, di dopo scuola ai minori del quartiere, e insieme a loro abbiamo piantato 15 alberi da frutto all'interno della loro struttura. Ed è stata davvero una cosa molto emozionante vedere poi questi bambini così attivi, così attenti e così responsabilizzati poi di questo loro albero. Ed è stata davvero una bellissima giornata e è stato bello raggiungere il nostro primo traguardo in questo modo. Carlo. Beh, intanto complimenti, perché è la cosa incredibile che 100 alberi già sono tanti, ma poi avendo iniziato ad ottobre 2019 sono veramente tantissimi, veramente complimenti. La cosa che mi chiedo è, ma serve un permesso per piantare un albero, oppure uno lo può piantare dove vuole senza chiedere niente a nessuno? E poi l'altro è anche la questione del finanziamento. Sì, allora noi è l'arte che ci finanzia, nel senso che noi organizziamo delle serate di teatro, musica e poesia, infatti forse la prossima inviteremo anche il dirigente scolastico che avete chiamato prima, e ci piace questo, ci piace l'idea che spesso l'arte viene sempre considerata come una cosa aleatoria, una cosa futile, non indispensabile, invece in realtà è il motore economico. Noi gli artisti che vengono si esibiscono in maniera gratuita, chi viene alle nostre serate può dare quello che vuole, e ogni singolo euro ci compriamo gli altri, quindi ci piace anche questo aspetto, che sia la cultura a essere a finanziarci. Poi ovviamente siamo solo certo. 24, quindi se c'è qualche azienda che ci può sostenere su qualche progetto saremo ben lieti. Giustissimo, mi sembra che non ne abbiate bisogno, mi sembra che siano più certe aziende che hanno bisogno della vostra intraprendenza. Ma e invece sulla questione permessi, sì. è difficile, è sì. lungo, ognuno può allora, piantarlo dove vuole, come funziona? Bisogna chiedere dei permessi. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un supporto molto importante all'inizio della nostra attività da parte dell'assessorato del nostro municipio all'ambiente, che ci ha dato davvero le porte. Questo è bello, perché spesso si pensa alle istituzioni come un muro di gomma, invece abbiamo avuto un grande supporto, quindi vanno chiesto dei permessi. Per chi vuole iniziare, il consiglio che do, se trova delle difficoltà in questo senso, è cercare delle realtà non profit che hanno un giardino. Per esempio, noi ne abbiamo piantate anche in una struttura dove fanno assistenza dei ragazzi con disabilità, e quindi in teoria è uno spazio privato, ed è stato bello perché poi sono stati loro a piantarli e a prenderne cura. Quindi una scorciatoia è trovare questa strada nel caso in cui non si abbia delle difficoltà delle autorizzazioni, però sì, è necessario, soprattutto se è un parco dove è tutelata la sovrintendenza, quello è fondamentale. Ok, quindi piantare alberi sì, ma con responsabilità, chiedete tutti i permessi, anche perché sennò si fa una fatica inutile, no? Esattamente. Sia nella raccolta dei fondi per acquistarli, sia poi per piantarli e poi raccudirli, poi un giorno arriva qualcuno che ti dice però scusa, qui non lo potevi fare e non è opportuno magari farlo perché l'hai scelto il posto sbagliato. O è casa mia, oppure l'hai messo in modo che crescendo disturberà, che so io, la strada, eccetera, eccetera. Scegliere anche l'albero giusto, come no? Possiamo dare come raccomandazione. Non è che cercate di piantare un banano a Bolzano, che magari non è tanto furbo. Assolutamente, bisogna stare attenti, ci sono molti alberi non adatti, ad esempio, se su strada, perché possono rovinare poi il marciapiede. Posso approfittare a chiedere a tutti gli amici che sto ascoltando se possono visitare la nostra pagina Facebook Alberi in Periferia e mettere un mi piace, perché quello è l'unico canale che noi abbiamo per continuare la nostra attività, per comunicare quello che facciamo. Quindi mi approfitto, se posso, a fare certo, questo invito ai nostri amici. Lo può fare, e poi lo ritroveranno probabilmente anche sul nostro Facebook. Però grazie. Le faccio un'ultima Twitter, domanda. Perché noi twittiamo anche. Esatto. L'ultima domanda, non so se la sentiamo, chi lo sa, che dici? Carlo, ci sei o non ci sei? Non c'è. Allora, ricordo io, Alberi in Periferia, Andrea Loreti, io la ringrazio, adesso noi abbiamo lo spazio da dare alla viabilità. Carlo, non ci sta l'ultima domanda, non so se ci riesce, a meno che tu non sia compattissimo. Sono compattissimo, è un'iniziativa solo romana o avete piani anche ambiziosi tipo di venire a piantare degli alberi anche qua a Milano? La nostra patria è il mondo intero, quindi la nostra speranza è di allargarci dovunque c'è bisogno, e sono periferie da rivalutare, da mettere in rete per le energie, ce ne siamo solo a Roma, quindi non ci facciamo nessun tipo di limite e di confine, pian piano arriveremo. Perfetto. Grazie. Perfetto, ne siamo molto contenti, grazie. Grazie Andrea Loreti, la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco qui la nostra selezione di buone notizie della settimana. Carlo, sei pronto? Prontissimo. Bene, vado, inizio al numero 5. In Australia, mini satellite antincendi con rilievi infrarossi. Un satellite grande quanto una scatola di scarpe, primo del suo genere al mondo, progettato per individuare le località più vulnerabili agli incendi di foreste. Lo stanno sviluppando gli scienziati dell'Australian National University di Canberra dopo un'estate di fuoco, come sappiamo, che ha infuriato attraverso il continente, ha causato 30 morti, incenerito migliaia di abitazioni. Il satellite potrà misurare la copertura boschiva del terreno e i livelli di umidità usando rilevatori a raggi infrarossi, e i dati aiuteranno a determinare dove il rischio di incendi è maggiore e dove quindi potranno essere difficili da contenere. E ovviamente la prevenzione in questo caso è tutto. Al quarto posto, la Puglia approva la prima norma sui caregiver. Per caregiver familiare si intende la persona che decide di assistere, prendendosene cura, dei seguenti soggetti: il coniuge oppure l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o d'affine entro il secondo grado oppure di un familiare entro il terzo grado che a seguito di una malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative non è più autosufficiente e non riesce a prendersi cura di se stesso. Questi sono i caregiver, ma la notizia è che la Puglia ha un ruolo da apripista per la regione, che ha pubblicato la disciplina relativa ai caregiver familiari. Al momento non esiste una norma nazionale. Secondo la normativa si vuole valorizzare una figura considerata componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari, e quindi ne siamo molto contenti. È un si dovrebbe fare tutti, intanto lo sta facendo la Puglia e noi ne siamo contenti. E a questo punto andiamo in Giappone. Idrogeno solare a Fukushima, l'impianto più grande del mondo. Il taglio del nastro per il Fukushima Hydrogen Energy Research Field, il più grande impianto di produzione idrogeno solare mai realizzato al mondo, è avvenuto in settimana. L'annuncio è arrivato da Toshiba, che assieme all'organizzazione di ricerca NEDO, a Tohoku Electric Power e Iwatani sta portando avanti questo progetto dal febbraio del 2018. L'iniziativa ha come oggetto l'avvio della produzione di idrogeno nella prefettura di Fukushima, che tutti noi ricordiamo per il disastroso incidente nucleare seguito lo tsunami di qualche anno fa. L'impianto sarà stabilito nella città di Namie. Ad alimentare l'impianto non sarà solo la rete nazionale, ma anche la vicina centrale fotovoltaica. E questo è per il momento la notizia, e vedremo ovviamente le evoluzioni, la crescita di questo impianto. Al secondo posto di nuovo l'Italia, perché è la prima di tutta la comunità europea per incremento del riuso dei materiali. Il periodo, diciamo, dell'analisi di Eurostat è dal 2010 al 2017, dove il nostro paese fa meglio di tutti gli altri. È stato il paese europeo che ha aumentato di più, l'Italia, la percentuale di materiali recuperati e riusati nella produzione di nuovi beni. Sembra una cosa molto tecnica, ma in realtà è una ottima notizia, perché è esattamente il fatto di riusare gli stessi materiali, visto che noi ci occupiamo spessissimo di riciclaggio, ma il riuso ci sembra veramente fondamentale. Secondo le stime appunto Eurostat, la penisola ha fatto registrare un incremento del 6%, seguita da altre tipo Lettonia, Belgio, Austria, Paesi Bassi, che hanno fatto solo il 5%, e poi ci sono anche all'estremità opposta della scala, c'è anche un calo, perché ci sono tipo il Lussemburgo, che dal 2010 al 2017 il suo riuso è meno 15%, Finlandia meno 11%, Spagna meno 3%. Per una volta, essendo così in testa, ci prendiamo ben volentieri questo posto sul podio. E al primo posto, una buona notizia per tutti noi costretti, come sappiamo, in questi giorni alla clausura, e lo dobbiamo fare, serve, bisogna resistere. La solidarietà digitale che c'è, si allunga infatti la lista di chi in questi giorni di emergenza offre servizi digitali agli italiani. A incoraggiare e raccogliere le offerte provenienti da compagnie telefoniche, editori, aziende di telecomunicazioni è stato il Ministero dell'Innovazione, che online ha lanciato l'iniziativa Solidarietà Digitale. Sulla pagina web, che è in continuo aggiornamento, si trovano le opportunità a disposizione per leggere gratis giornali, libri, riviste, rigorosamente in formato digitale su tablet, smartphone, PC, insieme alle agevolazioni, minuti e giga, elargite dagli operatori mobili e da colossi come sappiamo Microsoft, IBM, Cisco, Amazon, a cittadini e aziende che si trovano alle prese con il lavoro agile, ma anche con la vita poco agile che conduciamo in casa in questo periodo. Aggiungo che a queste offerte se ne è aggiunta anche una un pochino in attesa, ma sicuramente molto amata da diversi, il sito Pornhub, che è tra i più noti portali pornografici del web, ha lanciato l'iniziativa Forza Italia, We Love You, e dà agli italiani l'accesso gratuito alla versione a pagamento del sito. E qui ci fermiamo. Give me five. All right. Give me five. All right. Carlo, com'è andata? Ce l'abbiamo fatta, è stata dura, ma siamo arrivati in fondo anche senza vederci. Vero, sai che cosa sì. Devo dirti? Che abbiamo un'ultima ascoltatrice, si sbraccia Edoardo Lavezzari, perché Letizia dalla provincia di Savona è qui con noi perché anche lei desidera dei libri, vero Letizia? Buongiorno. Buongiorno, salve, esatto. Come buongiorno. Va a Savona? Tutto bene? Il mare? Vi dà un po' d'aria fresca? È bello, c'è un bel sole. Dai, almeno lo respirate, sentite il profumo. Uscite sul balcone. Oggi a mezzogiorno c'è il grande applauso a tutti i sanitari d'Italia che si stanno impegnando per questa emergenza. Ieri la suonatina, oggi l'applauso a mezzogiorno sul balcone di Savona. Si respirerà un'aria migliore. Facevo volontariato in ospedale, ma adesso non mi fanno più entrare. Beh, certo, non è il momento. Non è ma il momento. L'applauso è anche per lei, signora, non si preoccupi. Occupi. L'applauso anche. Grazie. Senz'altro. E quando tornerà. Allora, le facciamo subito il quiz. Pronta? Pronta. Una bella storia dal Giappone. A seguito di un guasto, una signora di 95 anni ha ricevuto un dono inaspettato da una grande azienda. Di cosa si tratta? Risposta numero 1. Ha ricevuto dalla Ferrari una nuova 488 per continuare a scorrazzare nella periferia di Kyoto. Risposta numero 2, ha ricevuto dalla Nintendo un vecchio modello di Game Boy, andato fuori produzione, per continuare a giocare a Tetris. Risposta numero 3, ha ricevuto da McDonald's un buono a vita per continuare a mangiare i suoi amati Big Mac. Che dice? Signora, è un po' difficile. No, non è difficile. Una signora di 95 anni, attenzione. 95 anni, ha ricevuto una Ferrari, oppure un vecchio Nintendo per giocare a Tetris, oppure un buono da McDonald's per riempirsi di Big Mac. Ma io dico la 3. La 3. In effetti poteva essere una buona idea. Forse per fortuna non era il premio dato alla 95enne, perché la risposta esatta era il vecchio giochino Nintendo, che era evidentemente quello che usava la signora 95enne molti anni fa. Allora Carlo, ci dobbiamo salutare con un ringraziamento, certo, a Peter Bescapè in regia, Edoardo Lavezzari in assistenza, Danilo Di Trani, Andrea Piana ed ovviamente anche a te che sei in collegamento. Un saluto a tutti. Ciao da Carlo Gabardini.